In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. E cominciamo questa settimana dal New Yorker, che è il settimanale americano. In realtà, per una volta, anche questo settimanale ha un doppio numero, perché persino negli Stati Uniti in agosto si rallenta un pochino, e quindi anziché essere un settimanale, sostanzialmente il numero che ho davanti agli occhi è un quindicinale. La copertina, come sempre, è questo il tratto più distintivo del New Yorker, è un'illustrazione, e all'interno ci sono moltissimi articoli interessanti. Uno in particolare si chiama The Dream Deferred, che potremmo tradurre con Il sogno posticipato. Di chi è questo sogno posticipato? È quello di Bernie Sanders, che sapete era il candidato indipendente alla presidenza. Aveva un uomo di oltre 75 anni, che aveva raccolto, molto a sorpresa, ma forse neanche poi tanto a sorpresa, il consenso delle generazioni più giovani, perché lui è, per gli standard americani, un uomo di centrosinistra, anzi di sinistra, e sembrava dare un sogno in più, una speranza in più a una generazione di giovani che negli Stati Uniti, come in moltissimi altri paesi occidentali, per la prima volta da molto tempo non sono così sicuri che avranno condizioni di vita migliori di quelle che hanno avuto i loro genitori. E quindi questo lungo articolo di Benjamin Wallace Wells, che trovate a pagina 30 del New Yorker. Tra l'altro alcuni di questi articoli sono consultabili anche online, e il New Yorker offre la possibilità di consultarne 5 al mese gratis. Poi, se volete leggerne di più, bisogna fare un piccolo abbonamento. Per darvi l'idea, ma molti di voi lo sapranno, di come è bello, di come è affascinante questo settimanale, che continua a sopravvivere egregiamente nella sua forma cartacea, oltre che in quella online, vi segnalo solo che da pagina 58 c'è un racconto di Don DeLillo, che è forse il più grande romanziere americano di questa epoca, della sua generazione. Si intitola The Itch, che vuol dire il prurito, e infatti l'illustrazione è una mano che sembra intenta a grattare qualcosa. È un lungo racconto, ed è un'altra caratteristica del New Yorker di pubblicare appunto racconti di grandi scrittori. New York Times Magazine, che viene allegato al New York Times ogni domenica. Sapete che spesso nei giornali, nei quotidiani americani, l'edizione della domenica è la più ricca in assoluto, e addirittura proprio è molto pesante, perché c'è dentro di tutto, da dorsi speciali dedicati ai viaggi, alla finanza, all'ambiente, e poi quasi sempre ci sono anche dei magazine, uno o più di uno. Quello di domenica scorsa ha una copertina in cui c'è una specie di illustrazione molto divertente di una bilancia che salta per aria, e il titolo dell'articolo è La vita, lo leggo prima in inglese: Life in the post-diet age, when you're not supposed to try to lose weight because there's not supposed to be any shame in not being skinny, unless of course you're fat. Ovvero, la vita nell'era della post-dieta: in teoria nessuno è obbligato a mettersi a dieta perché non è magro abbastanza, a meno che ovviamente non si sia grassi. Una delle tante contraddizioni della nostra epoca, perché sappiamo a quanti eccessi possono portare sia le diete sbagliate, quelle magari che si concentrano su un solo tipo di alimentazione, magari anche sul digiuno, e anche a quanto possano essere pericolosi i disturbi alimentari, che a volte sono legati alla decisione di mettersi a dieta, magari non per ragioni di salute o perché si è particolarmente grassi, ma solo perché appunto la società dice che dobbiamo essere tutti magri. E è una contraddizione abbastanza irrisolvibile, anche perché capire quanto nelle nostre decisioni di aderire a un ideale estetico centri quello che passa sui mezzi di comunicazione, o per esempio quello che, di cui ci convincono i nostri pari, e quanto invece sia dipendente da fattori più nostri, più psicologici, è molto diverso. Però credo sia giusto e interessante continuare a parlarne, anche perché i disturbi alimentari e in generale gli eccessi da una parte o dall'altra, quindi persone troppo magre o persone troppo grasse, stanno aumentando in tutti i paesi, in particolare tra i bambini. Vi segnalo poi la prima pagina della Zeit, il settimanale tedesco, al quale da qualche settimana mi sono abbonata e che quindi sono molto felice di potervi segnalare. La copertina è dedicata al tempo, e in particolare al fatto che, nonostante si continui a parlare di intelligenza artificiale, di grandissimi progressi nella tecnologia, È vero, e succede in Germania, forse un pochino meno in Svizzera, sicuramente in Italia, non è affatto facile azzeccare le previsioni, nonostante appunto tutti i mezzi tecnologici, le elaborazioni, le simulazioni al computer che si possono fare. Poi un approfondimento anche sulla questione dell'immigrazione, come forse vi ho già detto nelle settimane scorse, la Zeit anche arricchisce i contenuti che sono già ottimi, con una grafica molto accattivante, quindi in questo caso nella pagina 2 e 3 c'è questo approfondimento, helfen oder abschotten, cioè aiutare o rifiutare o mandare via, e c'è una mano, il testo è proprio scritto come se fosse su un piano inclinato, c'è il filo spinato in alto e una mano che tende a questo filo spinato, ma è davvero un aiuto se poi appunto si riesce a raggiungere un confine che però è protetto dal filo spinato. E pensate che poi l'approfondimento a proposito di grafica sulla questione dell'imprevedibilità, l'imponderabilità del meteo, è un fotomontaggio, prende spunto dalla sagoma del famoso quadro di Edvard Munch, L'Urlo, ma in realtà è fatto con quelle curve, con quelle convenzionali linee con cui si indicano le zone climatiche. Quindi complimenti sicuramente al grafico che l'ha fatto. E poi, visto che durante questa settimana si è parlato molto del documento messo su un forum di Google in cui si teorizzava la differenza di attitudini, soprattutto sul lavoro, tra gli uomini e le donne, e l'ingegnere di Google che ha messo questo studio su internet è stato licenziato, e da lì un dibattito: è o no Google sessista o maschilista, o comunque discrimina le donne o in generale le minoranze, le diversità. È un tema che viene affrontato anche in Germania. In particolare, la domanda che si fa la Zeit è: wie sexistisch ist die Uni? Quanto sessista è l'università? E ci sono oggettivamente dei problemi, a partire dal numero comunque di ricercatori o di rettori di università, uomini che sono sempre molto maggiori di quelli delle donne, ma anche andando a vedere nei vari laboratori e centri di ricerca come comunque le donne siano discriminate. E come un aspetto che forse agli uomini pare strano, ma io, essendo donna, lo noto a mia volta, anche solo il linguaggio, il tipo di battute, il tipo di argomenti, a volte gli uomini non si rendono conto di usare appunto delle parole o di toccare degli argomenti che in realtà possono essere molto fastidiosi per le donne, che naturalmente non c'entrano niente col tipo di lavoro che si sta svolgendo in quel momento, sono solo così un contorno. Del quale molte di noi farebbero volentierissimo a meno. Ma passiamo a un bimestrale che non conoscevo, ma è molto interessante. Ho trovato questo articolo su Vox Europe. Il nome di questo bimestrale è Strade, pubblicato in Italia, e l'articolo si occupa del tema della difesa comune europea. È un tema molto dibattuto, come tanti temi a livello europeo, non si trova, se ne parla, ma forse non abbastanza in profondità, ma è uno di quei temi un po' come le regole fiscali sui quali i singoli stati membri tendono a non voler lasciare il controllo. E quindi questo giornalista francese che collabora con questo bimestrale che ha la redazione a Roma spiega: le discussioni sulla difesa comune europea hanno ripreso vigore dopo l'elezione di Emmanuel Macron alla presidenza della Francia. È giunto il momento di creare un esercito comune europeo sotto l'autorità di un alto consiglio di sicurezza. Tra l'altro, questo giornalista Olivier Dupuy è anche un ex deputato europeo, quindi può non soltanto ragionare con la sua testa da giornalista e osservatore delle questioni, ma anche raccontare, e lo fa in questo lungo articolo che trovate su voxeurope.eu, può anche ragionare su quello che ha visto succedere in Parlamento quando si toccavano questi argomenti. E sostanzialmente sembra che appunto il Parlamento europeo, espressione comunque diretta, unica espressione diretta dei cittadini europei tra le istituzioni appunto dell'Unione, non sia pronto a prendere seriamente in esame una costruzione di un esercito europeo. Vi segnalo invece dalla Süddeutsche Zeitung un articolo sull'acqua. Si è molto discusso in Italia delle tariffe sull'acqua, poi naturalmente c'è stata la crisi idrica in molti, molti posti, tra i quali Roma. Si scopre che non investiamo, le società che gestiscono gli acquedotti e le reti di distribuzione idrica non investono abbastanza in manutenzione, quindi una quantità di sprechi enorme. In ogni caso, anche in Germania si parla di questo. La Germania è naturalmente un paese che investe molto di più nella manutenzione delle reti idriche, dove però l'acqua, tra l'altro, costa molto di più. E scrive la Süddeutsche Zeitung, quasi ovunque in Germania il valore dei nitrati dell'acqua è alto e in questo momento bisognerebbe investire molto per rendere l'acqua potabile. Che quindi da appunto l'acqua delle reflue, l'acqua delle falde naturalmente va depurata, e però siccome stanno aumentando questi nitrati costerà molto di più alle varie società che le gestiscono renderla potabile senza ombra di dubbio, senza goccia di dubbio, e quindi potrebbe anche aumentare il costo finale per l'utente. Da Le Monde vi segnalo un'intervista di Loris De Filippi, che è il presidente di Medici Senza Frontiere Italia. Non contento di tutte le interviste che ha rilasciato in Italia, ne ha rilasciata una anche a Le Monde, forse perché Medici Senza Frontiere è una ONG nata in Francia nel 1971 e ha ribadito il concetto espresso più volte anche in Italia, che secondo lui il governo di Roma vuole criminalizzare le ONG, in riferimento naturalmente alla vicenda del nuovo codice per le ONG che operano nel Mediterraneo, che si fanno carico di operazioni di salvataggio dei migranti. E però questo codice non è stato firmato, per esempio, dai Medici Senza Frontiere. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato e buona lettura o buona navigazione da Giulia Crivelli.